Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Anche Salva Danaio continua questa lunghissima maratona radiofonica che abbiamo dedicato all'esito elettorale americano. La designazione del 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, una designazione che cambierà i libri di storia, porterà con sé anche inevitabili cambiamenti dal punto di vista economico e finanziario. Barack Obama si insedierà alla Casa Bianca ufficialmente in gennaio. Da quel momento dovrà cominciare ad applicare la sua ricetta per il rilancio economico, per la riforma dei mercati, il sostegno ai consumi e ai settori in crisi, il ripristino della fiducia. Come ha reagito intanto la borsa a questa elezione? Per la verità la reazione era stata molto più evidente alla vigilia della tornata elettorale. Ieri tutte le borse sono state protagoniste di una giornata molto brillante. I rialzi in Europa erano stati nell'ordine del 4, 5, il 6% anche a Piazza Affari. Molto bene anche ieri Wall Street, molto bene anche stamattina e nottata l'Asia. L'Europa parte invece negativa. In realtà gli operatori parlano di inevitabili prese di beneficio dopo il rally di ieri. Parigi sta scendendo del 2,41%, Francoforte di 1,5%, Londra meno 2,44%, S&P MIB a Piazza Affari meno 1,32%. Cosa è successo? Che è ovviamente tornata d'attualità la parola recessione. Peraltro l'Europa guarda anche all'appuntamento di domani con la Banca Centrale Europea, un appuntamento cruciale perché insomma c'è una grande richiesta di un taglio dei tassi di interesse che in tutta probabilità la BCE domani farà, ma in ogni caso, alla luce del risultato elettorale americano, cosa succederà all'economia? Quali scenari possibili si possono individuare in questa fase? È molto difficile, abbiamo vissuto un anno molto difficile, il 2009 sarà contraddistinto probabilmente da una forte recessione su scala globale, ma insomma cosa dobbiamo aspettarci? Oggi parleremo di questo a Salva Danaio, grazie anche alle vostre domande, ai vostri interventi, se vorrete all'800 24 00 24, con Nicolò Foscari, che saluto, responsabile dei prodotti multi asset per la clientela istituzionale del team Equity, quindi settore azionario di Credit Suisse Asset Management Italy. Guardi che nel corso della trasmissione abbrevierò nettamente la sua carica. Benvenuta a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. E buongiorno anche a Mario Spreafico, direttore investimenti di Citi Italia, bentornato. Buongiorno. Allora, il numero verde ve l'ho ricordato, vi ricordo anche il numero a cui potete scriverci i vostri messaggi, 349-238-6666. I miei collaboratori mi segnalano anche di nuovo la discesa del petrolio a $67 al barile, ieri aveva recuperato i 70, abbiamo ancora una grande volatilità sui corsi del greggio, ma è una volatilità alla quale siamo abituati, riguarda il petrolio, riguarda tutte le materie prime, riguarda i mercati valutari, riguarda i mercati azionari. In ogni caso adesso abbiamo una certezza, il nuovo presidente americano è arrivato, generalmente la certezza è premiata dal mercato. Cominciamo con Mario Spreafico, insomma una buona notizia o no per voi di Citi, una grande banca americana che ha subito tutti gli effetti della crisi, l'abbiamo anche detto più volte? Beh, sicuramente è una notizia che segna, dà essenzialmente un messaggio, cioè quello di un cambiamento di fronte probabilmente a quello che è ancora una discussione in corso sulle varie politiche economiche che possono essere intraprese per uscire da questa crisi. Crisi che inevitabilmente si è spostata sull'economia reale. In questo momento l'America sta soffrendo un impatto molto più pesante del previsto, quindi è chiaro che le ricette economiche in questo momento saranno fondamentali. Io credo che però è molto difficile pensare a un cambiamento di direzione dei mercati nel brevissimo termine per l'effetto di questa elezione, anche perché abbiamo visto che ormai le scelte che riguardano i mercati finanziari sono scelte bipartisan, quindi politicamente parlando l'approccio su cui è stato costruito il piano di salvataggio e quindi l'ingresso del governo, quindi questa svolta storica diciamo di un ingresso dello Stato nell'economia attraverso questo pacchetto Paulson, è stato proprio la prova del 9 di fronte all'incapacità dei mercati di autorigenerarsi da soli, come era tra l'altro la ricetta liberista dell'area repubblicana. Ci si è resi conto che effettivamente l'intervento dello Stato serviva, quindi c'è stata una scelta bipartisan del congresso americano, difficile, e in questo caso peraltro difficile, che sarà sicuramente reiterata come politica da parte del nuovo presidente americano. Sarà di fondamentale importanza, ma qui io credo che i mercati nel breve termine non se ne renderanno conto, in quanto sarà troppo presto per valutarlo, quali saranno le politiche fiscali di medio e lungo termine, per in quanto l'approccio dei democratici invece l'approccio di Obama è un approccio completamente diverso dalla vecchia teoria che ha reso poi il successo ai repubblicani fin dall'epoca reaganiana dell'amministrazione Reagan, della cosiddetta Chicago School, in cui l'intervento sulla politica fiscale molto aggressiva di riduzione delle imposte sarebbe stato il cosiddetta spinta dell'economia in un medio-lungo termine. L'approccio di Obama è un approccio, chiamiamolo più legato alla cosiddetta politica dei redditi, cioè una distribuzione più efficiente, anche se devo dire che è stata fatta un po' questo programma un po' in silenzio, perché aumentare le imposte dai livelli di reddito che sono stati in parte oggetto di questo programma politico di Obama, effettivamente si tratta di livelli di reddito molto alti, quindi probabilmente viene preservata la cosiddetta mid class americana. Niccolò Foscari, mi hanno raccontato che lei è stato a lungo negli Stati Uniti di recente, ho avuto un'informazione sbagliata. No, è vero. Ecco, allora, come ha vissuto questa vigilia? È tornato comunque prima della lunga notte delle elezioni, sì, molto ma prima. Diciamo che io stavo a Manhattan, dove comunque la vita come naturalmente continua, tutti escono, tutti si divertono. Ho fatto però tempo a vedere qualche scatolone di cartone che usciva dalla banca, accompagnato da qualche persona licenziata. E quindi naturalmente ha testimoniato questo, in diretta il fallimento di Lehman Brothers? Sì, ho visto anche all'interno della mia banca delle persone che sono state mandate via, e quindi questo naturalmente non giova mai al sentiment della città. C'è anche da dire che ancora probabilmente, per esempio, si dice molto che il mercato immobiliare a New York non abbia ancora risentito di tutti questi licenziamenti, soprattutto dei non bonus per il 2008 di tutti gli investment banker e anche di tutto il mondo degli avvocati, per esempio, perché anche loro non prenderanno molti soldi quest'anno perché non stanno facendo nessun tipo di attività. Quindi per chi pensa probabilmente che il mercato immobiliare sia giunto a un bottom, diciamo, è una variabile che ancora potrebbe invece subire qualche pressione. Non abbiamo ancora visto tutto sul mercato immobiliare americano, dice lei, insomma. Probabilmente no, naturalmente per ragioni diverse. Negli Stati Uniti ci sono aree diverse che hanno problematiche diverse, per esempio il sud, in particolare Miami, c'è ancora una oversupply, una sovroofferta molto, molto forte, proprio perché c'era stato un eccesso di costruzione negli anni passati. Poi altre zone, magari Chicago e New York, subiranno appunto una diminuzione degli investimenti, proprio perché inizieranno a mancare i soldi nella fascia di popolazione che in genere era un forte acquirente dei real estate. Quindi diciamo che il sentiment, ho potuto vivere in primo piano il sentiment, che comunque era abbastanza, stava iniziando a essere abbastanza sotto pressione. Negativo, quindi, certo. Diciamo così. E comunque, in ogni caso, la certezza di un presidente dovrebbe dare adesso una percezione diversa. Sì, in ogni diciamo caso, che qualunque sia la direzione, deve esserci la direzione di un'aggressione alla recessione in arrivo. Ma diciamo che è proprio questo il punto. Diciamo, la chiave di lettura, secondo me, è con quanta forza Obama avrà o ha già vinto le elezioni, perché alla fine poi non penso a diversità sostanziali, a parte in aree specifiche, magari in alcuni settori particolari dell'economia, però nel complesso non penso a differenze marcatissime fra i due candidati. Penso che la cosa più importante per i mercati finanziari fosse proprio una vittoria forte e decisa di uno dei due candidati, e sembra proprio che Obama ce l'abbia fatta. E infatti la domanda appunto che campeggia peraltro su gran parte dei giornali di questa mattina è proprio questa: Obama può salvare i mercati dalla crisi? Lo diceva prima Mario Sperafico, intanto dovrà gestire l'onere finanziario necessario a garantire gli effetti del maxi piano di salvataggio da 700 miliardi che è stato varato un mese fa dal Congresso in condizioni di difficoltà non indifferenti, il cosiddetto piano Paulson, ma il primo impegno del nuovo presidente degli Stati Uniti, ci hanno spiegato tutti gli analisti, gli economisti in questi giorni, sarà, io lo dico in termini molto generici, quello di riformare Wall Street e riavvicinarla a Main Street. Mario Spirafico ci spiega che cosa significa? Ma allora, innanzitutto riformare Wall Street significa riformare il mercato globale, quindi questo è sicuramente, Obama può essere il motore, il propulsore per avviare questo processo, perché effettivamente si tratta del mercato finanziario più importante importante del mondo, diciamo la locomotiva anche dei segnali per tutto il resto del mondo. Ma io credo che più che diciamo, l'intervento di Obama sarà fondamentale l'approccio e soprattutto diciamo, le decisioni prese questa settimana dall'Unione Europea e a metà novembre dal G20, che verranno delineati. L'ultima patata bollente che Bush deve comunque affrontare, ha tentato di scamparsene in ogni modo, ma comunque deve gestire questi impegni. E direi che gli appuntamenti importanti sono proprio questi, cioè capire quali saranno i paletti da dover eventualmente innalzare in una riforma generalizzata del mercato finanziario globale. Questo non significa riformare i mercati, ma porre delle regole ben precise. Regole che non sono mancate in questi anni, ma non sono state, secondo me, direi accettate da un certo punto di vista e in parte sono state anche eluse dai mercati. Regole, io intendo una migliore trasparenza per quanto riguarda determinati paesi, quindi i cosiddetti paradisi fiscali, e soprattutto una maggiore trasparenza per determinati prodotti, soprattutto hedge funds. In questi anni c'è stata una crescita esponenziale di questi prodotti, che non fanno sicuramente, non sono il demonio, ma c'è stata una parte, i cosiddetti unregulated funds, cioè quindi quella parte di fondi non regolamentati, che in parte hanno avuto, secondo me, una responsabilità molto forte in tutto quello che è avvenuto. Quindi non per colpa loro, ma per carità, sono stati lasciati operare senza nessun tipo di grossa preoccupazione, in quanto non si pensava che l'effetto poteva essere così importante. Quindi io credo che saranno questi gli appuntamenti importanti. Poi portare Wall Street sulla Main Street, io penso che saranno poi automaticamente i mercati, ma anche questo cambiamento, che non è più un cambiamento solo dei mercati finanziari, ma credo che sia un cambiamento della collettività. Quindi io credo che si entrerà in un mondo forse un pochino meno legato a quelli che sono l'aspetto della crescita economica basata sull'effetto ricchezza, ma si ritornerà a una crescita economica basata sui redditi e su quello che sarà il valore dell'economia reale. Ecco, tra l'altro sarà sicuramente importante anche la squadra economica che Barack Obama riuscirà a mettere in campo, Niccolò Foscari, anche perché questo nuovo presidente, fino a quando è stato un candidato, ovviamente è stato molto spesso osservato e anche messo un po' in difficoltà nel suo lato debole, che è quello dell'inesperienza politica, se vogliamo. Lui è stato un senatore dell'Illinois, ma non ha avuto incarichi, diciamo, di governo, nel senso che non ha governato nessuno stato americano. Riuscirà ad aggredire in maniera così sostanziale anche il tema delle regole dell'economia e della finanza e della deregulation, anzi, con la quale ci stiamo scontrando drammaticamente in questo momento? Ma innanzitutto la preparazione tecnica, è vero che forse gli è stato additato questa problematica, però naturalmente poi è il team che lui va a scegliere, che poi sarà quello che operativamente implementerà le pianificazioni. Quindi forse Obama deve essere più che altro una persona in grado di scegliere delle brave persone, più che essere lui direttamente esperto di alcune cose. Poi diciamo anche che forse un pochino è grazie a questa crisi che i repubblicani hanno perso un pochino di smalto nell'opinione pubblica, quindi probabilmente anche l'aggravarsi di alcune cose, proprio sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista dell'economia fondamentale della situazione, un pochino ha aiutato Obama. Io penso tuttavia che l'attuale governo nell'ultima parte stia iniziando a implementare delle strategie che vanno nella direzione giusta, nel senso che finalmente hanno deciso di allocare parte del denaro per entrare direttamente nel capitale delle banche. Mm-hmm. Quindi mi sembra che dei 700 miliardi di dollari, 250 siano dedicati proprio all'acquisto di azioni privilegiate delle banche. E questo è molto importante perché capitalizza direttamente le banche, quindi inserisce capitale nelle banche, di conseguenza migliorano tutti i ratios, migliora il Tier 1 e mi sembra che abbiano i parametri principali, insomma. Esatto, alcuni analisti abbiano fatto delle valutazioni e un Tier 1 medio adesso delle banche americane, poi naturalmente vanno fatti distinguersi intorno al 10.5-11, quindi che è un valore rispetto, che ne so, per esempio, buono. Ad una banca italiana che ha dei ratio patrimoniali intorno al 7%, sì. Può essere considerato... Sì, anche lì bisogna vedere poi cosa succederà anche per le banche italiane. Però tutto sommato penso che questa sia la direzione giusta. Infatti l'attenzione sia nostra come investitori sia appunto dei mercati azionari probabilmente si sta un pochino spostando da quello che è la crisi delle banche a quello che è la crisi dell'economia reale. E infatti, quindi questo... abbiamo avuto prima la crisi del credito, la crisi delle banche, e adesso abbiamo avuto la crisi dei subprime, la crisi dei mutui, che si è drammaticamente tramutata in crisi finanziaria di portata importantissima, e adesso appunto abbiamo l'inevitabile ricaduta in Main Street, come dicevamo, quindi tra l'economia reale. Allora io direi di cominciare anche a sentire che cosa ne pensano i nostri ascoltatori di quello che è accaduto negli Stati Uniti, e soprattutto qual è il grado di interesse sui risvolti economici, e caliamoci nel dettaglio ancora di più, i risvolti anche tra i nostri investimenti, per chi non è scappato magari in questa fase dal proprio fondo, dal proprio investimento, dalla propria banca, perché insomma abbiamo visto anche questo di recente. Che cosa vede per il proprio futuro? Gianni da Varese, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, grazie per l'opportunità. Ha seguito con passione questa nottata elettorale americana, Gianni? Abbastanza, sì, abbastanza, e sono contento del risultato. Spero che Obama duri tanto e non faccia la fine dei fratelli Kennedy. La mia paura è solo questa. No, poi volevo dire, cioè io sono contento che ci sia Obama, perché penso che finalmente introdurrà delle regole ben precise e tira via la deregulation e toglie i lacci e lacciuoli che il ministro di Bush, un certo Graham, aveva introdotto 8 anni fa, che hanno portato al disastro finanziario. Questa è la cosa principale. Poi, seconda cosa, non so, un'idea che vuole sottoporre ai suoi esperti, sì, se è giusto o sbagliata, no? Io dico che nella borsa, in particolare quella italiana, Piazza Affari, ci sono di quelle società, no? Di quei titoli che hanno perso il 40-50%, cioè sì, una cosa che non si verificherà più, come scrive Antonella Olivieri stamattina su Sole, per 50 anni, per 40 anni. Quindi, e poi hanno un coefficiente prezzo utili di 7-8, cioè incorporano già l'eventuale recessione che viene. Io questa cosa mi induce a dire che piuttosto che comprare i bot, i titoli di Stato che dietro hanno un debito pubblico di 3 milioni di miliardi di lire, no? Allora preferisco comprare un'azione dell'Eni che produce, vende petrolio e mi dà un dividendo dell'8-9%, oppure non so, delle municipalizzate. Cioè volevo chiedere agli esperti, secondo loro, dato questo contesto, è giusto investire i propri risparmi in borsa oppure no? Io tra l'altro devo dire che l'ho già fatto, ho comprato delle azioni Eni quando valevano 14-15 giorni fa e adesso mi trovo contento. Gianni, volevo chiedere se è giusto andare avanti così. Beh Gianni, io penso che poi ogni cosa abbia il suo equilibrio, i miei ospiti io credo che non potranno certo risponderle in maniera contraria rispetto a quello che lei ha detto. Io però aggiungo, l'importante è che questo investimento che lei fa sia coerente con il suo profilo di rischio e soprattutto insomma non vada adesso anche allo sbaraglio in borsa, se l'investimento è fatto in maniera accorta, attenta e appunto ribadisco in maniera opportuna rispetto al suo profilo di rischio. Credo che a parte questo momento, che forse per certe società è sicuramente molto favorevole, il momento per entrare in borsa è sempre quello buono, se si ha coerenza, Mario Sperefico, con se stessi e con le proprie esigenze. No, è vero, cioè diciamo che il ragionamento dell'ascoltatore è corretto, cioè nel senso che nel momento in cui ci sono delle pressioni irrazionali su cui i mercati scendono talvolta esageratamente, quindi ci si rende conto che obiettivamente c'è un'onda emotiva e quindi è giusto per chi ha coerentemente col proprio profilo di rischio decide di incrementare le posizioni azionarie, è assolutamente corretto, o chi lo fa in un'ottica effettivamente di lunghissimo termine proprio per una diversificazione oculata del portafoglio. Quello che bisogna tenere presente, secondo me, è la cosa più importante, che in questo contesto dire i prezzi sono scesi molto, il price earning, il rapporto PE è molto basso, è un po' un discorso molto pericoloso, perché non dimentichiamo che anche il famoso PE, che è un indicatore che molti usano come, diciamo, forse un po' il campanello d'allarme per dire entro o esco dai mercati, è un parametro dal mio punto di vista obsoleto. Cioè fino a un anno fa, quando avevamo i mercati sui massimi storici, i PE erano sotto la media storica, quindi si pensava che i mercati azionari dovessero crescere ulteriormente. Quello, secondo me, il ragionamento fondamentale e soprattutto il pensiero fondamentale in questo momento è considerare che siamo in un mondo che sta cambiando e quindi anche i mercati finanziari stanno cambiando e stanno cambiando anche i parametri su cui valutare gli investimenti. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, mercati finanziari, economia, quale direzione all'indomani, anzi a poche ore dalla elezione del 44esimo presidente americano Barack Obama. La borsa europea oggi ha un andamento negativo, ma è stata protagonista ieri di una seduta molto buona con rialzi del 4, 5, 6% a Piazza Affari. Adesso abbiamo un un calo che tra l'altro è in ridimensionamento rispetto al nostro precedente collegamento. Milano sta perdendo un punto e domani abbiamo anche la riunione della Banca Centrale Europea. Diciamo che a questo punto già il mercato ha digerito, o quasi completamente digerito, l'elezione di Barack Obama. Si guarda oltre, come i mercati sempre fanno, si guarda alla recessione che è in arrivo, a quella che potrebbe essere la sua intensità, la sua gravità, e quindi le ripercussioni sui mercati oggi sono inevitabilmente legate a questo. Tra l'altro abbiamo anche le trimestrali che continuano ad arrivare. Non abbiamo dato la buona notizia del giorno, e la diamo ogni giorno: le tensioni ancora in calo sul mercato interbancario. Anche stamattina l'Euribor a tre mesi è continuata a scendere e si è portato al 4,66%. Siamo sui minimi dal 19 marzo a questa parte. Noi stamattina stiamo parlando di prospettive dei mercati con Nicolò Foscari, Team Equity di Credit Suisse, la responsabilità di questo team, Marius Prefico, direttore investimenti di Citi Italia. Prima di continuare la chiacchierata con voi da casa all'800240024, ma anche con i nostri ospiti, vorrei farvi sentire il parere di Fabrizio Gallimberti, editorialista del Sole 24 Ore, intervenuto nella nostra lunga maratona radiofonica questa mattina. Che cosa comporta la vittoria di Obama in termini economici? Sentiamo la sua analisi. Beh, io direi che tutte le grandi elezioni come questa sono annunciatrici di un cambiamento. Ora, è significativo che questa sferzata, diciamo, di ottimismo, di voglia di cambiare, di fiducia, sia arrivata proprio in un momento in cui è lo sfilacciamento della fiducia l'elemento principale di questa crisi che sta dilaniando le economie occidentali. Quindi una iniezione che dal punto di vista economico è senz'altro positiva, e le borse, sia Wall Street che le altre, l'hanno riconosciuta come tale. Direi anche che Barack Obama si è fatto sostenitore già da qualche settimana di un secondo stimolo fiscale, di un secondo stimolo di bilancio dopo quello di maggio-luglio, per dare un altro sostegno all'economia americana. Quindi il fatto che tutte le cartucce dell'armamentario della politica economica, da quelle monetarie a quelle di bilancio, stiano per essere sparate o siano già state utilizzate, ecco, tutto questo fa pensare che questa grave crisi ha di fronte a sé un altrettanto determinata e forte risposta di politica economica, e in questo senso l'elezione di un candidato del cambiamento sono un fatto positivo. E insomma, le cartucce a disposizione di Barack Obama per aggredire questa difficilissima fase finanziaria. Però per un piccolo investitore, quali sono le cartucce per aggredire questa fase di mercato? Giorgio dalla provincia di Milano credo ascoltasse con grande interesse quello che diceva prima Mario Spreafico. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Teresa. Senta, no, volevo appunto rifarmi all'intervento del dottor Spreafico. Volevo sapere, secondo lui, quali erano i parametri non più obsoleti, come il price earning, che invece diciamo, è ancora un parametro che utilizzo abbastanza spesso per questo tipo di valutazione. Se secondo lui ci sono, cioè quali sono secondo lui, magari senza dare grandissime spiegazioni, però i principali che eventualmente utilizza lui, ecco. Grazie Giorgio. Beh, allora, insomma, in questi mesi abbiamo letto molte analisi sulla reazione irrazionale dei mercati rispetto a tante notizie, e ci hanno indicato molti esperti, molti anche i suoi colleghi, Spreafico, di ritornare sui fondamentali per investire in borsa. Il rapporto tra prezzo e utile non è un fondamentale? No, è assolutamente un fondamentale. Però bisogna fare attenzione a un elemento, secondo me, fondamentale, che ha caratterizzato il cambiamento dei mercati in questi ultimi anni. Cioè, il rapporto prezzo-utili è sicuramente una condizione importante, necessaria per valutare nell'insieme la bontà di un'azienda e i fondamentali di un'azienda. Ma quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni va distinto molto da settore a settore. La finanza non è stato solo un elemento che ha colpito il mondo delle banche per colpo o concorso di colpa, ma ha colpito anche il mondo delle imprese. Quindi molto spesso il rapporto prezzo-utili tiene conto anche di una gestione finanziaria che è stata probabilmente prevalente nel mondo delle imprese, soprattutto in alcuni settori. valori, e quindi in questo caso non danno una chiara figura di quello che può essere l'effettiva bontà industriale. Ad esempio, alcune aziende, come possono essere le utilities e altre industriali, in questo momento sono più chiari e più precisi dei parametri che sono il valore dell'impresa sul margine operativo lordo, cioè il cosiddetto EV su EBITDA. In altre situazioni va valutato attentamente, nel caso delle banche, dove il PI è un multiplo che viene sostanzialmente tralasciato, ma si parla di prezzo su mezzi propri, va valutato anche qui a seconda del tipo di banca. Le banche europee possono essere facilmente, soprattutto quelle italiane, valutate al cosiddetto price book value e quindi verificate nei loro diciamo comparables. Le banche americane no, perché le banche americane sono tradizionalmente, questo spiega perché hanno un tier 1 dopo questo ingresso di capitali più alto, perché sono tradizionalmente a leva, quindi hanno degli attivi con un grado di rischiosità superiore e quindi necessito di un patrimonio di vigilanza. Quindi dipende da caso a caso. Quindi io credo che in questo contesto, in questo cambiamento, cambieranno molto anche questo tipo di parametri. Quindi non mi affiderei solo al price earning per valutare un'impresa. Teniamo conto che una volta ripulito di questo eccesso di finanza anche nel mondo delle imprese, il rapporto prezzo-utili diventerà forse un parametro più attendibile. Non posso far altro che chiedere a Nicola Foscari se condivide un'analisi di questo tipo. Sì, condivido l'analisi, anche se a mio parere più che altro gli addetti ai lavori in questo momento non guardano il price earning, perché naturalmente è un rapporto che può essere basato su delle stime che possono non essere esatte, quindi quando verso il futuro c'è poca visibilità, quindi è difficile prevedere le stime di utili, di crescita degli utili futuri, è chiaro che questo rapporto perde un pochino di significato. E attualmente infatti questo ratio è molto basso, proprio perché le stime sono ancora probabilmente troppo alte. E molte banche infatti pensano che dovremmo ancora vedere un sacco di downgrade, quindi di revisione al ribasso da parte di molti analisti, proprio perché le stime sono ancora eccessive se consideriamo un contesto di recessione o addirittura anche di depressione. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, questo è un ratio che varia molto a seconda dei periodi, perché è vero che noi a livello storico siamo in un range molto basso, però è anche vero che se io guardo ai soli periodi di deflazione della storia, il PI medio è intorno a 10 volte gli utili, quindi non è neanche vero che siamo poi così lontani se facciamo un paragone con i periodi di deflazione e poi consideriamo che negli anni 30 i price earnings sono arrivati a 5. Il paragone non si può fare perché è una realtà completamente diversa, ovvio. Però per farvi vedere che comunque sono tutti rapporti che vanno un attimo contestualizzati. Ecco, detto questo, e anche per ritornare un po' ad utilizzare termini che magari riusciamo a rendere più comprensibili per i nostri ascoltatori, traducendo tutto questo in scelte di investimento, abbiamo detto, insomma, se dovessimo in questo momento avere casualmente a disposizione magari un po' di liquidità, visto che in realtà ce ne sta ritornando parecchia sul mercato, non tra le banche, però magari fra gli investitori, credo che forse in questo momento per coloro che hanno tirato i remi in barca di recente, adesso forse è il caso di cominciare a pensare a dove poter tentare di investire in una fase come questa. Come si traduce in settori di investimento, Marius Prefico, questa analisi anche che ha fatto? Ha citato un paio di settori, le difficoltà delle banche e le opportunità nel ramo delle utilities e poi tutto il resto. Le materie prime adesso stanno scendendo in maniera importantissima come quotazioni. Sì, anche esempio. Questo è un caso esagerato. Le materie prime, io credo soprattutto queste società che operano nel mondo dell'energia, che sono state eccessivamente penalizzate, ma come dicevo prima, i mercati in questi anni sono stati un po' ostaggio di attori di mercato che hanno lavorato su micro trend, su non con la logica dell'investitore, dell'investimento di medio-lungo termine, quindi del classico investimento su fondamentali, ma sui micro trend. Quindi per gioco forza ci siamo trovati una situazione isterica all'opposto, cioè crolli sui mercati, ad esempio i titoli minerari che sono crollati, cioè tutto questo, il settore del petrolifero, eccetera. Ma non è che queste sono società che non hanno valore, in questo momento possono rappresentare, secondo me, una buona opportunità. Quello che occorre considerare è che questa diciamo irrazionalità per diversi attori che stanno in questo momento uscendo e stanno andando ai margini del mercato, quindi oserei dire in un modo forse più macroeconomico, le risorse finanziarie globali si stanno riallocando in modo più efficiente, danno da un lato delle opportunità di acquisto, ma danno anche l'opportunità di riordinare le idee su quelli che possono essere, diciamo, le opportunità di investimento nei prossimi anni. Faccio un esempio azzardato: io credo che il mondo delle banche, il mondo dei finanziari, da qui ai prossimi anni anni, ma non parlo di 10 anni, ma i prossimi 2-3 anni, è difficile aspettarsi che possano produrre degli utili considerevoli e quindi essere delle società di alta crescita. Io credo che le banche assumeranno un po' un ruolo quasi da utilities a tutti gli effetti, che avranno una crescita lenta e costante in quanto dovranno sistemarsi e adeguarsi a un nuovo mondo. Questi sono cosiddetti elementi intangibili che vanno valutati. Ci sono delle opportunità, dicevo prima, le opportunità negli eccessi. Quando noi vediamo un petrolio che si dimezza nel giro di poco tempo, quindi non si può non dire che c'era un effetto di speculazione, cioè questo è fuori di dubbio. C'è quando vediamo hedge funds, piccoli, medi, che hanno difficoltà nel dover portare avanti e quindi rinviano gli eventuali disinvestimenti, cioè le finestre di uscita. A questo punto credo che si creino delle opportunità che possono essere interessanti per gli investitori. Scenari di investimento e prospettive dei mercati alla luce del risultato elettorale americano. Questa mattina a Salvadanaio con Nicolò Foscari, responsabile del team Equity di Credit Suisse Asset Management Italy, e Mario Sprefico, direttore investimenti di Citi Italia. Al 349-238-6666 un ascoltatore chiede: dottoressa Rosciani, ma ovviamente la domanda non è per me ma per i miei interlocutori, ritiene intelligente uscire da alcuni titoli bancari con perdite intorno al 20% per entrare in ETF sulle energie alternative negli States? Beh, agganciandomi a questo, io vi dico quello che ha detto il neo presidente americano: nel corso dei prossimi 10 anni investirò 150 miliardi di dollari per sviluppare la produzione di energie rinnovabili, fra cui quella solare e quella eolica, e per creare nel settore ben 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Adesso noi non possiamo dare un suggerimento diretto sul proprio investimento al nostro ascoltatore Nicolò Foscari, però è un settore che tutto sommato, insomma, forse non è proprio da buttare via. Sì, è sicuramente molto interessante. C'è da dire che la borsa, che probabilmente è più intelligente di noi, ha già scontato molto di quello che è il, almeno nei corsi degli anni passati, quello che era questo nuovo trend secolare appunto dell'energia rinnovabile. Io sinceramente consiglierei di non uscire dai titoli finanziari, perché comunque appunto secondo me il peggio proprio per le società, per le banche, è passato. Poi è vero che strutturalmente il trend di crescita degli utili in futuro potrebbe cambiare, però non andrei a fare la scelta di uscire in questo momento dai titoli. Globalmente sui portafogli quello che stiamo facendo noi è restare in un'ottica estremamente difensiva, quello che un pochino tutti ci aspettiamo, e sì, adesso magari il mercato rimbalzerà un pochino, poi inizierà a affrontare il 2009 probabilmente con una certa debolezza, quindi è probabile vedere una continuazione della volatilità che stiamo vedendo sul mercato. Quindi parola d'ordine prudenza, mi pare di capire che sarà rimarcata spesso in futuro. Sì, è chiaro che il nostro lavoro è anche quello di saper dare dei segnali agli investitori quali sono le variabili in questo momento infatti, anche perché le cito anche un ascoltatore che ovviamente in maniera ironica mi dice: bravissimi, siete bravissimi a prevedere il passato, ovviamente. Esatto. Diciamo che quello che cerchiamo noi di fare è innanzitutto di valutare la volatilità. Ci sono alcuni indicatori che rispecchiano bene il sentiment di mercato. Uno di questi è il VIX, che rappresenta la volatilità dello Standard & Poor's, e diciamo che è facile pensare che un bottom del mercato possa essere toccato solo con una diminuzione vera della volatilità, cioè vedremo un consolidamento a livelli di movimenti molto meno erratici del mercato. Quindi questo è sicuramente uno. L'altro sono tutto quello che riguarda l'Libor, l'Euribor, quindi il tasso a cui le banche si prestano i soldi, quindi un aumento di questa attività, quindi una diminuzione di questi tassi, potrebbe far vedere che finalmente le banche hanno ripreso fiducia in loro stessi, quindi iniziano a prestarsi dai soldi, quindi potrebbe sicuramente essere un segnale di distensione. Il segnale di questi giorni sono ritornati questi indicatori ai livelli pre-crack Lehman Brothers, per cui già questo forse un piccolo... Sì, diciamo che in realtà faccia che non c'è bisogno di fidarsi. No, bisognerebbe considerare lo spread sui tassi delle banche centrali. E qui siamo già ad un livello un po' troppo sofisticato anche per diciamo me. Diciamo che probabilmente dovrebbero scendere ancora un pochettino. Ecco, detto in soldoni. Sì. Enrico da Roma, benvenuto. Sì, buongiorno. Salve. Vorrei fare una domanda abbastanza pragmatica. In questo momento, naturalmente, credo, è stato appena detto, ci sia più euforia sulla borsa. Allora, la mia domanda è: io ho della liquidità, naturalmente, come tanti, e spero come tanti, e mi domando, la crescita di una borsa verso una stagnazione o comunque non crescita dell'economia reale è una cosa che può durare nel tempo? Cioè, questa distonia che c'è in questo momento, la borsa continua a crescere nonostante si parli di stagnazione e quindi di una stasi dell'economia. Enrico, reale. Mi scusi, forse ci siamo persi qualche passaggio. Quale borsa sta continuando a crescere? Negli ultimi settimana. Negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto 10% più o meno. Abbiamo avuto un recupero, sì. Sì, però ecco, adesso il problema era proprio questo: è un recupero del tanto perso o un inizio di un trend di risalita? Il che mi sembra strano, perché l'economia reale poi in realtà non esiste ancora in termini di risalita, si parla di stagnazione. Prendiamo in considerazione la sua osservazione, Enrico. Io credo che ci siano state ampiamente delle ricoperture sui titoli che forse erano stati eccessivamente penalizzati dalle tendenze più recenti di ribasso, però abbiamo ancora borse che stanno perdendo dall'inizio dell'anno tra il 40 e il 50%, Enrico, per cui credo che i movimenti degli ultimi 4 giorni siano assolutamente irrilevanti. Mario Spereafico, però, lui dice, insomma, è possibile poter pensare ad una borsa che riprende a correre con una recessione invece ormai evidente nei numeri, nei fatti? Le borse sono per definizione anticipatrici esattamente, dei cicli. Sono per definizione gli anticipatori, quindi in questo momento la scommessa delle borse, indipendentemente dall'andamento degli ultimi giorni, che sono ovvie ricoperture o riposizionamenti, è quando inizierà a ripartire una ripresa, o quali ci saranno i primi segnali di luce fuori dal tunnel, e quindi è difficile prevedere. Io ripeto, in questo momento io credo che i mercati finanziari, ma soprattutto le borse, stanno facendo i conti un po' con questa riorganizzazione del mercato finanziario, cioè di attori, di modo di lavorare, quindi si stanno riallocando le risorse a livello globale, in primis dalle banche di investimento americane, poi tutto il resto. Stanno riallocando il modo, le posizioni, quindi il modo di lavorare, attori che hanno esagerato sul mercato. Quindi, una volta finita questo tipo di ristrutturazione del sistema globale, io credo che i mercati inizieranno a scontare esattamente poi dei fondamentali in modo più chiaro e preciso. Non vedremo più titoli che fanno più 70, 100, 120% al giorno, ma probabilmente li vedremo in un contesto razionale. Lo dicevamo anche quando è scoppiata la bolla speculativa dell'high-tech, poi in realtà ci siamo ricaduti, quindi insomma magari quello, chissà che il futuro non ci riservi. No, quello è l'esempio, quello è un esempio molto importante, perché in quel periodo si innestarono anche dei meccanismi di attori che poi hanno incrementato questa bolla. Io ho un ultimo ascoltatore e poi un minuto di tempo prima di chiudere. Francesco da Verona, lei mi deve promettere di essere telegrafico. Assolutamente telegrafico. Grazie. Complimenti per la trasmissione. Solo una domanda. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime reali, intendo, è sotto l'occhio di tutti gli incrementi che ci sono stati su pane e pasta dovuti agli aumenti di cereali. Da un mese a questa parte i mercati di riferimento stanno tornando indietro ai livelli di due anni fa. Parliamo di Cina e India, in sostanza, Francesco. La motivazione che chiedevamo un mese fa era legata alla domanda della Cina e dell'India. È possibile che tutto questo oggi sia cambiato radicalmente? E se sì, quali le prospettive future? Francesco, davvero, neanche lì, forse a volte si enfatizzano un po' certe tendenze che non hanno motivo. Insomma, Cina e India cresceranno un po' meno in futuro di quanto sono cresciute negli ultimi anni, e tanto è bastato a molti investitori a cambiare drasticamente le proprie posizioni. Nicola Foscari, chiudiamo su queste aree. Avremo bisogno di 2 ore di tempo per commentare, però. Ma soprattutto Cina continuerà a crescere, l'ultimo dato che è uscito sul GDP 9%, direi che è un buon dato. Soprattutto sta mostrando una certa resilience alla contrazione dell'economia mondiale, la domanda interna dell'economia cinese, che cresce a ritmi del 23%. Quindi direi che su quelle aree siamo ancora abbastanza sicuri. Poi la borsa si potrà muovere in un modo diverso, ma per quando parliamo di economia, quelle aree continueranno a crescere. Grazie molte, a prescindere da Barack Obama, insomma, abbiamo capito. Grazie a Nicolo Foscari, del team di responsabile del team Equity di Credit Suisse, Mario Spereafico, direttore investimenti di Citi Italia. Insomma, grazie. Oggi alla fine abbiamo parlato di tutto e un po' meno sul finale di trasmissione di Barack Obama, ma ne saranno pieni i giornali, tutte le analisi anche sui possibili scenari economici e finanziari, ma soprattutto dovremo vederlo a gennaio alla prova dei fatti. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.